Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, si chiama Geolana ed è l'ultimo frutto di una storia appassionante raccontata anche da Ermete Realacci nel suo libro dedicato qualche anno fa alle imprese italiane innovative Green Italy. Geolana è un geotessile, un tessuto quindi, fatto con lana di pecora sarda che può essere utilizzato per ripulire il mare da idrocarburi e composti azotati come quelli che causano la crescita incontrollata delle alghe. La lana delle pecore sarde è praticamente impossibile da filare, in compenso è un materiale, come peraltro direi tutte le lane, quasi indistruttibile, non si biodegrada e nemmeno brucia se non diciamo in condizioni infernali. E naturalmente la Sardegna ne è piena. Dalla ricerca di un'applicazione per questo rifiuto è nata una storia affascinante, quella di un'impresa che nel tempo ha messo a punto un gran numero di prodotti per l'edilizia basati sugli scarti dell'agroalimentare sardo. Questa azienda si chiama Edizero e abbiamo in linea con noi la fondatrice Daniela Ducato. Buonasera Ducato. Buonasera a tutti voi. E a tutti i radioascoltatori. Allora, senta, partiamo da questa Geolana, se ci spiega come funziona. Geolana, come ha ben detto lei, è un geotessile 100% pura lana vergine di pecora autoctona sarda, e alcune versioni contengono all'interno anche del sughero, e la funzione è quella appunto di catturare gli idrocarburi petrolchimici, quindi tutti quei micro sversamenti quotidiani che si verificano nelle operazioni di pesca, nelle aree quindi di pesca. E quella roba traslucida, no, che vediamo sulla superficie dell'acqua ogni volta che andiamo in un porto, no? Esatto, si vede quel velo. Si vede quell'iridescenza. Esatto, no? Esatto. Ecco, proprio quegli sversamenti quotidiani. Che cosa fa questo geotessile posto in acqua proprio anche come preventivo? Quindi non solo nei micro sversamenti, quelli che si vedono, ma anche diciamo quotidianamente. Cattura e quindi cattura. Separando dall'acqua questi idrocarburi, no? Gli idrocarburi vengono catturati dalla lana che li trattiene, sì. Chiaramente la lana è idrorepellente, quindi seleziona, quindi cattura appunto questi oli, ma l'altra cosa molto particolare è che contemporaneamente li biodegrada, se li mangia, perché la caratteristica e l'innovazione è stata quella di aver creato un geotessile che ha delle microcamere che sono molto interessanti per i microorganismi. Confortevoli per i microorganismi marini, sì. Confortevoli per i microorganismi marini che appunto ci vivono benissimo, ci abitano, diventano proprio case per questi organismi che non sono chiaramente patogeni ma sono utili. E che cosa fanno? Loro si nutrono proprio di idrocarburi petrolchimici e di composti azotati, diventa il loro cibo, il loro food, e lo trovano in questo modo. Quindi abbiamo fatto dei mini depuratori molto leggeri, molto resilienti, che catturano e depurano. Quindi diciamo che uno va in un porto, li mette lì, li mette in acqua e li può lasciare lì sostanzialmente, perché lì, mano a mano intercettano e distruggono, biodegradano i microsversamenti di idrocarburi sostanzialmente. Pensiamo anche ai porticcioli turistici dove spesso abbiamo anche aree di balneazione. Sì. Ecco, due curiosità. Intanto mi spiegava che anche le creme solari sono piene di idrocarburi, quindi nelle stagioni balneari ne rovesciamo un bel po' nel mare. E tra l'altro è curioso, insomma, un chilo di questa lana assorbe fino a quanti chilogrammi di idrocarburi? Mi assorbe fino a 17 chili, ecco, di oli e inquinanti oleosi che appunto sì, troviamo in mare. Ecco, quando così gonfia la lana la potete proprio spremere, no? Recuperare gli idrocarburi eventualmente e riutilizzarla. Allora, la cosa interessante è che in uso preventivo la lana cosa fa? Cattura, mangia, quindi poi alla fine certo, non resta niente. Abbiamo un residuo abbastanza piccolo che può essere però spremuto in qualche modo, la lana può essere spremuta e quindi abbiamo anche un recupero parziale di questi oli. Insomma, alla fine è un ciclo virtuoso dall'inizio alla fine. Senta, com'è nata questa idea? L'idea è nata da un trasferimento di altre idee. Avevamo già tutti i dati che ci provenivano dal mondo della bioedilizia, dalla depurazione dell'aria, dalla depurazione della terra, perché ricordo che questi materiali vengono usati per le bonifiche ambientali, e quindi poi abbiamo affinato la ricerca grazie all'importante collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari di microbiologia, e insieme quindi abbiamo portato il risultato dell'innovazione di questo nuovo prodotto prodotto salva mare mangia petrolio. Ecco, è un po' anche il vantaggio questo di chi fa, diciamo così, innovazione sistematica. Sì, in realtà Giolana è l'ultima arrivata di tanti prodotti che appunto sono tutti eccellenze dell'agricoltura, e questo modo di guardare insieme questi residui con gli occhi dell'agricoltore, con gli occhi dell'allevatore, ma anche, come in questo caso, con gli occhi dell'Università di Cagliari con cui è nato quest'ultimo prodotto. E tutta questa innovazione nasce in queste filiere di comunità sociali e anche scientifiche, e quindi le nostre sono innovazioni di comunità. Di comunità, e forse questa è la cosa più innovativa che abbiamo raccontato oggi. Grazie Daniela Ducato. Grazie a voi per questo spazio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.